Una pagina sul Sole, a pagina 6, sui fallimenti, il solito disastro della giustizia civile italiana. 9 anni e mezzo per chiudere un fallimento, questa è la performance media degli uffici giudiziari italiani, 2 e mezzo in più dei 7 anni che la Cassazione ha fissato come termine ragionevole. E poi insomma ci sono tribunali, questa è la media, ci sono tribunali dove va meglio, come Milano, Torino, Brescia, Trieste, ci sono tribunali come a Caltanissetta dove la media è di 22 anni, ma trovate come al solito a pagina 6 tutta la classifica, diciamo, di chi sta messo meglio e chi sta messo peggio e chi sta al disastro per quel che riguarda la giustizia civile. L'ultima segnalazione, essendo lunedì, è dalla Gazzetta. Rosso Alonso, la vittoria della Ferrari, torna la vittoria della Ferrari, primo e secondo posto Alonso e Massa, trionfo Ferrari, doppietta in Bahrain. E poi c'è anche il campionato ufficialmente riaperto, Milan, Seedorf, sì, come sì, non... l'avete capito, sì come sì, il contrario di no, Seedorf. Questo è il titolo, meno uno, io rido perché con Peter siamo contenti, abbiamo un po' fatto un salto sui rispettivi divani ieri al gol di Seedorf. E allora ci fermiamo, votate il sondaggio sul celibato dei preti, secondo voi la Chiesa dovrebbe rivederlo? Siamo alle 8:17, siamo ritornati in diretta 24 mattino, eccoci qua col momento dell'economia. Con le stampanti e multifunzione a colori Xerox a inchiostro solido è più semplice. Vai su xerox.it/promo. Vi presenta Soldi e dintorni. Siamo con Deborah Rosciani. Ciao, buongiorno. Buongiorno, ben ritrovato. Contento, stamattina. Milan, contentissimo. Guanta lo scudetto, quasi. Aia. Non si poteva dire? No, però abbiamo il microfono fatto di ferro e quindi se mi vedeste attaccato con due mani. E vabbè, tu sei impazzita a fare il tema di oggi che tra poco stai per fare. Sì, oggi? Oggi parlo di pendolari. Ma tu non sai perché oggi? Oggi è la giornata della lentezza. E lei cosa parla di pendolari? Caro mio, treni lenti, rimborsi forse un po' più veloce quando scattano i disagi, quando scattano i diritti all'indennità appunto per i disagi che subiamo. Sì, oggi diciamo che facciamo un po' scattare sull'attenti molti ascoltatori costantemente arrabbiati con le Ferrovie dello Stato. Sì. Devo dire che poi a gettare benzina sul fuoco, la settimana scorsa sono arrivate le nuove dichiarazioni dell'amministratore delegato delle Ferrovie riguardo proprio ai pendolari. Moretti cosa ha detto? Per i pendolari le proteste ci saranno sempre perché l'affollamento è tale per cui la difficoltà di avere posti e treni per tutti è difficile, non si può pensare ad una flotta solo nelle ore di punta. E allora noi oggi non ci vogliamo soffermare sulle sue dichiarazioni, però lasciano un po' il tempo che trovano perché comunque ci pensano un po' le associazioni dei consumatori a commentarle. E però nel momento in cui è scattata l'alta velocità, in cui le tariffe sono rincarate un po' per tutte le tratte, è chiaro che ci destano un pochino di malumore queste dichiarazioni. Detto questo, ci sono anche però nuove tutele per chi subisce i ritardi e chiede alle Ferrovie dello Stato il rimborso, no? Per i disagi subiti. Allora, di questo stamattina si occupa ampiamente il Sole 24 Ore, a pagina 33 di Affari Privati, in un articolo scritto da una collega, collaboratrice del Sole, Paola Bertelli, che saluto. Paola, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, abbiamo le nuove condizioni generali di trasporto degli utenti di Trenitalia, sono in vigore dal 3 dicembre. Intanto, prima informazione di servizio per tutti gli interessati, dove le possiamo trovare? Allora, intanto le condizioni generali di trasporto si possono tranquillamente scaricare dal sito delle Ferrovie e qui si possono avere tutte ben chiare le varie situazioni. Sono entrate in vigore il 3 dicembre e in pratica il 13 con l'entrata in vigore anche del nuovo orario che poi ha coinciso anche con tutte le nuove tratte di alta velocità eccetera. Ecco Paola, sono state introdotte da dicembre, dicevamo, ma abbiamo una cornice europea a tutto questo? Sì, certo, sono state fatte tutte in base a questo regolamento europeo il 1371 che ha imposto, diciamo, questo regolamento nasce per assicurare ai viaggiatori delle condizioni minime, delle qualità minime standard. Il problema grosso di Ferrovie dello Stato

esempi veloci di paesi vicino a noi, Spagna, Francia, Germania, hanno tutti condizioni migliori, loro hanno integrato il regolamento europeo alle loro precedenti condizioni, ma senza peggiorarle. Paola, abbiamo raccontato tutto di queste novità, perché noi stiamo chiudendo la parte che appunto Alessandro Milan ci assegna ogni mattina. Ci sono altre informazioni di servizio da dare ai nostri ascoltatori, magari ricordiamo la guida del viaggiatore che è sul sito delle Ferrovie dello Stato. Quello sì, assolutamente, ferroviedellostato.it. Forse una cosa che mi è sfuggita: per i biglietti regionali indennizzabili al ritardo sono esclusi quelli comprati online e le fasce chilometriche. Benissimo, Paola, grazie per essere stata con noi, buona giornata. Buona giornata a voi. A presto, Alessandro. E allora, guarda, 12. Oggi un pochino mi tengo un po' sull'argomento, perché parlo della giornata europea del consumatore, visto che tante volte norme europee ci piombano addosso e noi ci adeguiamo anche al peggio, come... Anche capirlo, insomma, queste norme. Esatto, infatti. Giornata europea, cioè una celebrazione in tutta Italia. Alle 8:32 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Le notizie in primo piano: sono 18 le telefonate di Berlusconi finite nell'inchiesta di Trani su presunte pressioni del Premier per chiudere alcuni programmi in Rai. C'è un clima avvelenato, dice il Premier. Oggi a Trani arrivano gli ispettori mandati dal ministro Alfano. In Francia, al primo turno delle regionali, secca sconfitta per la destra del presidente Sarkozy. La vittoria va ai socialisti del Fronte Nazionale di Estrema Destra, ai socialisti e al Fronte Nazionale di Estrema Destra di Jean-Marie Le Pen. Per il calcio in Italia, in campionato, il Milan vince il posticipo 1-0 sul Chievo con gol al 90esimo e sale a -1 dall'Inter, mentre nel pomeriggio pareggiano sia la Roma che la Juventus. E infine, per la Formula 1, doppietta Ferrari nella prima gara della stagione in Bahrain, trionfa Alonso davanti a Massa. E allora, alle 8:33 minuti, parliamo oggi di un tema che è su tutti i giornali da giorni, un tema anche molto delicato per la Chiesa, un tema che riguarda anche certamente gli abusi sessuali, e parliamo di questo tema che abbiamo scelto: il celibato dei sacerdoti. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Io non le voglio collegare le due cose, non voglio collegare i due temi, ma è inevitabile che, insomma, il tema è tornato alla ribalta in questi giorni, quando qualcuno ha ipotizzato questa teoria, che dal mio punto di vista è una teoria un po' bislacca, insomma, gli abusi sessuali che stanno emergendo, per i quali il Papa si è detto molto adombrato, molto angosciato, legato anche all'idea del celibato dei sacerdoti. Ecco, siccome c'è il celibato, oggi l'arcivescovo Fisichella, in un'intervista al Corriere della Sera, in maniera molto chiara risponde a Gian Guido Vecchi, dice: e il celibato? Noi non siamo dei repressi, siamo persone che hanno fatto una scelta libera di dedizione e amore per la Chiesa e coloro che ci vengono affidati. I pochi che vi attentano creano un danno enorme alla stragrande maggioranza di preti che vive questa dimensione con gioia e serietà. Però questo vi chiediamo: secondo voi la Chiesa dovrebbe rivedere il celibato dei preti? Intanto io voglio salutare la professoressa Lucetta Scaraffia, buongiorno. Buongiorno. E Sandro Magister, che è il vaticanista dell'Espresso, anche un blog molto molto seguito. Magister, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, Lucetta Scaraffia, che insegna all'Università La Sapienza, collabora con molti giornali, collabora anche con l'Osservatore Romano, dunque con il quotidiano proprio della Santa Sede. Senta, lei, professoressa, ha scritto un articolo nel quale intanto ha parlato del ruolo delle donne. Prima però di venire al ruolo delle donne nella Chiesa, le chiedo una sua opinione su quanti dicono: ecco, gli abusi sessuali li legano al celibato dei sacerdoti. Ma guardi, questo assolutamente, come lei del resto aveva già detto prima, non ha alcun rapporto, anche perché se poi vediamo il numero percentuale di pedofili rispetto al generale, i religiosi sono una minoranza, la maggioranza dei pedofili sono in famiglia e quindi sono sposati. Basti vedere anche il caso di quella scuola di Francoforte, scoperto in questi giorni, in cui più di 100 ragazzini hanno avuto degli abusi sessuali e nessuno era celibe dei professori che gliel'ha praticato, quindi non ha assolutamente rapporto. Il motivo per cui si attacca al celibato è un motivo invece diverso. Il celibato ecclesiastico è stato attaccato sempre, è qualcosa che disturba una società. Pensiamo anche alla riforma protestante, che era stata fatta contro celibato ecclesiastico considerato impossibile da tenersi e quindi un'ipocrisia. Oggi in una società pervasa di valori sessuali, in cui la rivoluzione sessuale ha convinto tutti che il piacere sessuale sia un diritto per tutti, che chi non lo ottiene ha degli effetti negativi psichici e fisici, certo che il celibato ecclesiastico praticato da donne e uomini nella Chiesa per libera scelta è qualcosa che sfida direttamente una mentalità diffusa, comune e molto persistente. Quindi appena succede qualcosa si attacca a quello, ma non ha alcun rapporto. Lei invece, per venire all'articolo che ha scritto sull'Osservatore Romano, ha detto: ci fosse un ruolo più forte delle donne nella Chiesa, questo sì, avrebbe anche potuto mettere un argine agli scandali a cui stiamo assistendo, almeno dalle cronache dei giornali. Perché? Ma guardi, nessuno lo dice, però se lei guarda bene, chi fa gli abusi sessuali nei confronti dei giovani sono il 90% maschi, cioè fa parte, diciamo, in qualche modo della sessualità maschile questo tipo di perversione, e le donne al massimo stanno zitte quando occupano delle posizioni subalterne. Quindi io penso che le donne, che poi sono mamme da una parte, hanno la tendenza a proteggere i ragazzi, mamme materne, voglio dire anche quelle che non sono madri, e dall'altra hanno subito storicamente sempre abusi sessuali, quindi è una cosa che conoscono bene, sono naturali, diciamo così, sentinelle, diciamo, di questa situazione, se ne accorgono e sono sempre dalla parte dei ragazzi, cioè non cedono alla omertà di dire meglio che non diciamo, cioè difendono i ragazzi. Io penso che se ci fossero più donne, non so se hai visto anche in quella scuola tedesca di Francoforte, che non c'entra la Chiesa, ma glielo faccio come esempio, perché sono andati avanti dal 70 al 2007 gli abusi sessuali, e il preside riceveva continue denunce e la possava. Appena hanno messo una preside donna è scoppiata l'inchiesta e sono stati puniti i pedofili, quindi c'è una differenza. Su questo io vorrei, Sandro Magister, coinvolgerla sia sul ruolo delle donne, ma anche, io ho letto per esempio nei giorni scorsi, credo su Repubblica, che ci sarebbe un dossier giudicato segretissimo e affidato al cardinale Hummes, per il quale la Chiesa starebbe pensando, con i tempi della Chiesa, quindi forse tra 50 anni, a ridiscutere la questione del celibato dei sacerdoti. È davvero una cosa ipotizzabile e fattibile? Ricordiamo che il celibato non è un dogma di fede, oppure no? Ma dal punto di vista teorico è sicuramente un'ipotesi plausibile, e invece dal punto di vista pratico sarebbe però utile dire che, e far notare che la Chiesa Cattolica comprende già al proprio interno un clero sposato. I riti cattolici orientali hanno un clero sposato. In Calabria vi sono delle diocesi di rito greco-albanese che hanno il clero sposato. Inoltre va anche tenuto presente che quella prossimità tra alcune parti della Chiesa anglicana che emigrano nella Chiesa cattolica fa sì che i sacerdoti, i ministri ex anglicani che diventano cattolici rimangono riordinati e restano tali sacerdoti, cioè anche con la famiglia che hanno. Questo ha creato infatti molto a dire: allora la Chiesa sta aprendo al sacerdote. Propriamente questa non è un'apertura, perché questa è una tradizione antichissima della Chiesa, plurisecolare questa tradizione, che anche nella Chiesa cattolica vede la presenza di un clero sposato, sia pure in posizione abbastanza minoritaria. Però attenzione, un altro elemento che generalmente non viene percepito dall'opinione pubblica su grande scala è la natura di questo clero sposato. Non si tratta di sacerdoti che hanno la facoltà o no di sposarsi, si tratta viceversa di persone già sposate che accedono al sacerdozio, e questo vale sia per la Chiesa cattolica, per queste minoranze di rito orientale, sia per tutto il grande mondo delle Chiese ortodosse d'Oriente, che hanno clero sposato sempre ordinato sacerdote dopo essere stato sposato. Oltretutto le Chiese d'Oriente, le Chiese ortodosse hanno anche esse un doppio registro, hanno un clero celibatario e un clero sposato. Però per la Chiesa romana non è così, insomma. No, i vescovi delle Chiese ortodosse vengono scelti esclusivamente tra il clero celibatario. E poi questa è una tradizione abbastanza molto antica, abbastanza presente prima che la Chiesa fosse divisa, prima che la Chiesa fosse divisa tra Oriente e Occidente e all'interno dell'Occidente tra Cattolicesimo e Protestantesimo. Nel primo millennio la regola generale era quella della continenza, comunque, cioè il clero sposato che esisteva doveva comunque essere continente una volta acceduto all'ordine sacro. Questa è una tradizione antichissima della Chiesa che addirittura risale al Nuovo Testamento. Sulla invece la questione di l'accostamento celibato e pedofilia, già qualcosa la professoressa Scarafia ci ha detto, ma ieri leggeva anche Fulvio Scaparro sul Corriere della Sera, insomma basta vedere qual è il profilo tipico del pedofilo, in genere è una persona sposata, è una persona, questo per quel che riguarda i laici, però ogni qualvolta si parla della Chiesa riemerge questo argomento. Ecco Magister, perché all'interno della Chiesa come viene vissuto questo accostamento che qualcuno fa? Ecco il celibato dei preti, ecco che porta a questi casi. Guardi, l'accostamento è assolutamente privo di fondamento, questo lo dicono tantissime persone, anche del tutto estranee alla Chiesa Cattolica, che appena accostano il problema della pedofilia. L'unanimità è praticamente totale su questo non nesso tra le due cose. Allora ci si può chiedere, come fa lei giustamente, perché in casi del genere riaffiora questa domanda che riguarda appunto la disciplina del celibato. Ma a mio parere riaffiora questa domanda perché sull'onda di una emozione, sull'onda di una serie di accuse molto forti che prendono di mira la Chiesa Cattolica su questo versante che ha a che fare appunto anche con i comportamenti sessuali, quasi naturalmente sorge la aspettativa da parte di alcuni settori, anche interni alla Chiesa Cattolica, di una variazione nella disciplina della Chiesa Cattolica stessa per quanto riguarda il clero celibatario, esattamente come pochi giorni fa, salendo ancora di grado, lo storico Alberto Melloni ha addirittura proposto come risposta alla crisi della pedofilia l'indizione di un Concilio Vaticano III. Sì, questo è un altro tema che fa molto discutere all'interno della Chiesa. Tra l'altro io vorrei salutare, ci sta ascoltando Federico Bollettin, buongiorno, anzi dovrei dire Don Federico Bollettin, no? Buongiorno. Don Federico Bollettin è un giovane prete sposato che credo non abbia mai chiesto la dispensa e quindi è prete per la Chiesa ma è sposato in comune, lo riassunta così, mi scusi l'ignoranza, insomma, in materia. Diciamo, non ho avuto la fortuna di nascere in Calabria, ad esempio, in quelle poche diocesi dove la Chiesa Cattolica permette di sposarsi. Perché dovrebbe, secondo lei, la Chiesa rivedere, tra l'altro il nostro sondaggio, che non è legato alla pedofilia, ma la Chiesa dovrebbe rivedere il celibato, le dico che stanno già votando, sono già 2000 i voti, il 77% dice di sì, immagino lei sia contento. Perché dovrebbe essere così, secondo lei? La Chiesa non è quella che si è stabilita questa regola, non un dogma, ma una regola, e quindi quella deve rimanere? Sì, cioè, prima di tutto secondo me il fatto che non esistono norme disciplinari assolute, ma le norme devono sempre essere per il bene delle persone e delle comunità cristiane, quindi è possibile poterla ripensare. In secondo luogo, secondo me, per un prete è importante trovare il proprio equilibrio affettivo sessuale, quindi io non sono per imporre il matrimonio, ma per lasciare la libera scelta del prete di vivere o in forma celibataria oppure da sposato. L'importante è trovare un proprio equilibrio affettivo, sessuale e quindi anche relazionale. Senta, perché lei dice proprio equilibrio? Beh, imporre no, ci mancherebbe che si debba imporre a un prete come a nessuno di sposarsi, cioè al limite la libertà di scelta. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, andrebbe secondo voi rivisto il celibato dei preti da parte della Chiesa? Questo ci chiediamo oggi. Allora, siamo con Federico Bollettin. Don Bollettin, perché lei dice ci vorrebbe un equilibrio psicologico, psicosessuale anche per i preti? Che ne pensa dell'accostamento che viene fatto da qualcuno sugli recenti abusi e il celibato? No, beh, credo che il prete sia prima di tutto un uomo di relazione e quindi Qualsiasi scuola di psicologia dice che per avere delle relazioni sane occorre trovare anche il proprio equilibrio affettivo sessuale, quindi non è una novità. Però neanch'io penso che il discorso del fenomeno dei preti pedofili sia riconducibile alla questione del celibato obbligatorio, però sia riconducibile alla visione negativa della sessualità che c'è nella dottrina cattolica e che questo causa, diciamo, una repressione, la quale a sua volta crea queste devianze. E credo che sia un conto se una persona qualunque sia pedofila, che è una cosa grave, ma che lo sia un prete ancor più, perché chi predica l'amore non può poi seminare violenza e morte in nome di Dio. E quindi l'atto compiuto da un prete dovrebbe fare ancora più riflettere sul fatto. Ma da questo punto di vista fa più riflettere, almeno dai titoli, visto che sono minori nei numeri, ma certo, appunto, per le valenze, insomma, implicate anche dal fatto che a commetterlo sia un religioso, chiaro che prende anche più spazio sui giornali e suscita ancora più scalpore. Su questo vorrei tornare dalla professoressa Scarafia. Prima due ascoltatori, per quello che lei ha detto, la visione negativa della sessualità nella dottrina cattolica potrebbe essere anche un po' all'origine di questo. Però prima sentiamo Umberto e Ronald. Cosa c'è? Umberto da Roma, buongiorno. Lei buongiorno, che dice? Mi sente? Benissimo, sì, dica. Senta, le volevo dire questo. Sul piano dogmatico è accettabile, ma sul piano razionale no, perché mens sana in corpore sano. Se il corpo viene represso e vengono repressi degli istinti naturali, la mente ne risente, non c'è più l'equilibrio nell'uomo. E quindi cosa deve fare il prete? La masturbazione? Questo Vabbè, è Umberto, il problema. A parte questo, le volevo dire che la maggior parte dei preti sceglie questa strada in età molto adolescenziale, a 9-10 anni, laddove non si operano delle libere scelte, ma a 9-10 anni, ma c'è un percorso, adesso non lo so, ma ci sarà tutto un percorso, voglio dire, non è che Umberto a 9-10 anni uno si sceglie e poi basta. Vabbè, professoressa Scaraffia, quello che dice Federico Bollettin, la visione negativa della sessualità repressa in qualche modo nella dottrina cattolica, lei che ne pensa? Guardi, io non penso assolutamente che sia così, ho anche scritto un libro su questo che pregherei Bollettin di leggere insieme con Margherita Pelaia. Cioè, io penso che al contrario la Chiesa abbia avuto una visione molto alta, ideale della sessualità, ha caricato la sessualità di valore spirituale, cosa che non avevano fatto le altre culture precedenti, proprio per averla caricata di valore spirituale come esperienza che consente un anticipo dell'esperienza dell'amore di Dio, quindi le ha messe delle regole piuttosto serie, è un'esperienza talmente importante che ha bisogno di regole molto serie, quindi direi che proprio il contrario, non c'è nessun disprezzo della sessualità nella religione cristiana, nella storia del cristianesimo, se uno la studia attentamente, c'è anzi un riconoscimento del valore altissimo della sessualità, addirittura diciamo come anticipazione dell'esperienza dell'amore di Dio. Vede che però nell'ascoltatore anche dice, sa, questa repressione, questo il fatto di non poter vivere gli istinti naturali. Ma quella non è una, scusi, se uno lo sceglie liberamente non è una certo. Repressione. Vorrei poi ricordare all'ascoltatore che oggi i preti non sono, entrano più in seminario a 9 anni, ma in genere le vocazioni sono intorno ai 30 anni, quando moltissimi hanno anche conosciuto esperienze sessuali e hanno deciso di seguire la propria vocazione. Quindi è tutto diverso oggi la situazione. Ed è una, se uno sceglie quella via, perché non può sceglierla? Cioè, non è che noi siamo delle macchine in cui se chiudi una porta va a fuoco l'altra, come un po' quello. Per fortuna gli esseri umani sono molto più complessi e si può, diciamo così, tramutare l'energia sessuale in un'energia spirituale. Vediamo cosa ne pensa Ronald dalla provincia di Milano. L'ha recuperato, buongiorno. Sì, dica. Allora, io sono, per me il celibato non c'entra assolutamente niente. Ho la personale impressione che il grosso problema è che queste cose succedono all'interno della Chiesa, dove si parla di persone che hanno una cultura, mi permetta di dire, leggermente superiore alla media. Dunque ci sono persone acculturate, persone che hanno studiato, persone, non siamo all'interno di un gruppo di persone dove c'è del degrado. Spesso e questo cosa scusi? E questo che cosa, perché tira fuori questo argomento? Per dire? Perché per me alcune volte la pedofilia succede in ambienti familiari, in ambienti familiari degradati, non sempre, anzi, non sempre, però quello che mi fa specie è che siamo di fronte a persone, appunto, ripeto, che hanno studiato, che hanno superato degli esami, e non è possibile, che possano succedere queste cose. L'altra cosa che volevo dire è che mi porrei il problema: perché non succede dall'altra parte, dalla parte femminile, dalla parte delle suore? È questa la cosa che mi domando. Allora, io, Magister, abbiamo un minuto per concludere. Si è parlato di una durezza da parte della Chiesa. Oggi è anche attesa una lettera del Papa nei confronti dei vescovi irlandesi, una chiesa, quella irlandese, che è stata molto colpita da questo fenomeno più di altre. C'è effettivamente questa durezza, perché molti dicono ma insomma viene sempre sottaciuto, vengono taciute queste cose, vengono spostati i sacerdoti, c'è una tendenza all'omertà all'interno della Chiesa stessa? No, diciamo che fino a un certo periodo fa c'era effettivamente in alcune zone della Chiesa nel mondo una certa prassi che tendeva a risolvere questi problemi in modo non visibile, non controllabile dall'osservazione pubblica, ma questa è una prassi che effettivamente ha avuto una svolta abbastanza netta a partire soprattutto dal 2001 e ad opera in particolare di Josef Ratzinger, che all'epoca era cardinale e poi è diventato papa. Josef Ratzinger su questo punto è assolutamente lineare, coerente e molto molto rigoroso. E appunto è col suo pontificato che c'è stata questa svolta molto netta e che sta in qualche modo risvegliando a un impegno molto più deciso nell'affrontare il problema anche gli episcopati, che sono stati più toccati dal problema stesso, proprio per una certa inerzia nel non saperlo affrontare. E poi, in ogni caso, tornando all'argomento del celibato, io personalmente ritengo abbastanza improbabile che la Chiesa Cattolica in un prossimo futuro riveda la propria prassi sul celibato, perché in ogni epoca in cui c'è stata un'esigenza di grande riforma della Chiesa, nelle epoche in qualche modo più drammatiche, pensiamo al secolo XI, quello della riforma gregoriana, la Chiesa ha fatto un investimento fortissimo su una classe di sacerdoti molto liberi e quindi celibi. Una sorta di avanguardia per affrontare dei problemi drammatici. Ci dobbiamo fermare qui, ringrazio davvero tutti coloro che sono intervenuti, così come Sara Spreafico in redazione e Peter Bescape in regia. L'appuntamento ovviamente è domani, bianconero e radio24.it. E allora a Oscar Giannino la linea, noi ci sentiamo domattina.